Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ciao, grande Alessandro Magno. E il signor Hood era un galantuomo, sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Con due pistole caricate a salve ed un canestro pieno di parole. È morto Marco Pannella e noi vogliamo innanzitutto fare ascoltare, come segno di lutto, il requiem che Marco Pannella scelse per la nostra radio, per raccontare anche il mondo del Partito Radicale, il mondo di... Sulla strada di Pescara venne assalita dai parenti ingordi. A livello parlamentare mai proteste, sempre proposte. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. T'ho portato il regalo posto, delle Iene. Vieni qua perché te vogliamo troppo bene. C'hai 80 anni e t'ho portato, ti faccio fa il check-up completo. Ma tu il check-up te lo sbatti in quel posto. Io quando faccio sciopero anche della sete, cucino per gli altri. E c'è una sola cosa che mi dà fastidio, perché la convivialità non bisogna abolirla. No, se certo. Tu fai lo sciopero fra me è la cosa. Allora li invito. E poi l'unica cosa che mi incazzo quando hanno poco appetito perché pensano che io sto digiunando. Con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Farsi le canne alla sua età fa bene? Io ritengo che farsi le canne a questa età o a 1000 anni di per sé non voglia dire un cazzo di nulla. Non vuol dire niente. Hai, ragazzi, capito? Le fumi le canne? Sì, no. Io? Una marea di volte. Oh, adesso le fumi le canne? Adesso le fumerei, ma in questo momento devo dire non ne sento il bisogno. Sulla strada di... Vabbè, una delle ultime interviste con Nadia Toffa di Marco Giacinto Pannella, irregolare della politica. Ragazzi, uno che mette a posto Enrico Lucci delle Iene è un genio. Uno che riesce a mettere a posto Enrico Lucci, il check-up dove te lo metti in quel posto. E vabbè, e così se n'è andato il signor Hood, come cantava De Gregori. Ora adesso tutti ovviamente iscriversi al Partito Radicale, eh? No, io questo non lo farò, insomma, non ho mai votato Radicali, non devo fare peana, non devo fare... Non esageriamo, ecco. Però Marco Pannella, un grandissimo della politica, che è scomparso ieri a 86 anni. Allora, è venerdì, forza amici, sono le 6.32 del mattino. Questo è 24 Mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il grande Peter Bescapella. Alpino, ti sei ripreso dalle tue bevute alla dunata? Sì, sta a posto. Hai già bevuto anche ieri. Vabbè, bombardini a raffica. Allora, se ne va Pannella, ma ragazzi, ieri è anche una giornata... è abbastanza certo che... Vabbè, qualcosa di strano ovviamente è successo, ma forse una bomba su questo aereo Parigi-Il Cairo. Che se confermato vuol dire che si porta una bomba a bordo anche a Parigi? Non so, fate voi. E tutti lo chiamavano. Siamo qui. Devo subito salutare i miei due ospiti. Intanto uno che Marco Pannella l'ha conosciuto molte volte, da vicino. Radicale, da quanto sei radicale? Vincino, buongiorno. Buongiorno. Da sempre. Beh, da dopo lotta con, dal 70, quando chiuse lotta continua, insomma, sei passato da lotta continua a radicale. No, ma sono, cioè, Marco l'ho conosciuto proprio perché nel palazzo di Via Dandolo, dove c'era lotta continua, c'era pure il suo giornale che si chiamava Liberazione. Liberazione. E, E là insieme con altri facemmo la campagna del divorzio proprio non, ecco qua e poi ma non si poteva non cioè non essere radicali infatti questo è un bel tema, non si poteva non essere radicali, oddio non è che tutti lo fossero però, erano pochi questi. È bella come provocazione, non si poteva non essere radicali. Allora facciamo così, apriamo il Parlamento, perché oggi al Parlamento voglio salutare un nuovo grande ingresso, prendere un caffè, quindi se mai perché abbiamo tra l'altro una delle nostre voci di Radio 24, ma non solo, Maria Latella, l'abbiamo sbrandata a quest'ora, chissà quanto ci odia. Vabbè, chissà... Nella mattina in cui si parla di Marco Pannella si può anche fare. Io che digiuni non ne ho mai fatti, ma proprio mai, perché esattamente una devota alla buona cucina, però una sveglia all'alba per Marco Pannella si può fare. E vorrei una cosa sola, se poi se ne parlerà e riparliamo, però il carattere che mi ha sempre convinto ad apprezzare Pannella e con lui Emma Bonino e con lui altri radicali è esattamente quello che facevi notare tu, un carattere in controtendenza con gli italiani. Gli italiani normalmente sono piacioni, cercano di piacere, lisciano il pelo, sono insicuri e quindi non dicono mai la verità. Pannella e Emma Bonino e altri radicali non sono così, non hanno mai lasciato lisciato il pelo a nessuno, nemmeno ai giornalisti, sono bruschi, asciutti. E quindi è un carattere molto poco italiano che ha fatto bene e farebbe molto bene ancora a tutti noi. Alla politica, è uno che appunto va da lui, gli va lì luccia a fare il piacione e lo sistema in 448, come dire, arriva qua la iena e devo fare. No, vabbè, ma giusto per dire che insomma Marco Pannella è uno che ha fatto mille battaglie. Poi però, Maria, non tutte condivisibili ovviamente, no? Magari non tutte appoggiate dagli italiani, però... Vincino ci dice non si poteva non essere radicali. Che cosa significa in questa frase, secondo te? Cosa c'è in questa frase, Maria? Negli anni 70 Marco Pannella ha fatto per le donne italiane e anche successivamente, ma soprattutto negli anni 70, quello che nessun politico, né uomo né donna, ha fatto mai. Le ha rese consapevoli della loro forza, del diritto a essere indipendenti, da un marito se un matrimonio non funzionava più, senza sentirsi per questo in colpa col divorzio, a essere libere di scegliere la maternità senza per questo sentirsi colpevolizzate. Quindi Marco Pannella e le radicali che erano con lui, Adelaide Aglietta, Elisabetta Pizzarutti, la delle Faccio, ovviamente Emma Bonino, Rita Bernardini, tutte queste donne radicali che con Marco Pannella si sono battute per i diritti di altre donne italiane e uomini, hanno fatto la modernità dell'Italia. E questo le donne italiane se lo dovranno ricordare sempre, perché senza Marco Pannella sarebbero, secondo me, arrivate molto più tardi e con più sofferenza al riconoscimento delle proprie forze. Un po' meno libere. Allora io devo salutare tutti coloro che vi scrivono, come sempre ci ascoltano in questo momento da Bremen, cioè da Brema. Saluti a Marco, da Leo, da Bremen, e poi tanti altri saluti ovviamente da in giro per l'Italia. Verona, ci saluta Isacco da Verona. Caro Vincino, qual è stata la battaglia? Qualche errore l'avrà fatto anche Pannella, dai. Qualche cazzata l'avrà fatta anche Pannella. Sì, no, tante volte era troppo avanti in un certo senso. Dici? Tante volte era troppo avanti e tante volte era troppo, la sua ricerca di verità e di giustizia era troppo, come dire, sì, aveva ragione lei, per molte cose era, per dire, la sua lotta contro la partitocrazia, no? Contro la partitocrazia, perché in realtà in Italia lui individua la continuità dal fascismo al consociativismo del dopo liberazione, no? Praticamente è lotta da solo contro questa cosa qua, contro questa cosa magmatica nella quale, peraltro, la miseria magmatica nella quale ci troviamo anche oggi, in un certo senso, no? Poi vabbè, però quale lotta è sbagliata? Dai, dimmene una che ha sbagliato. Questa bellezza che lottava per i contadini del Vietnam, delle valli, lottava per, come dire, il suo spazio era il mondo. L'Europa era la sua, era il suo giardino di casa, in un certo senso. Sì, no? Ma anche il Parlamento italiano, poi io, come dire, ho visto i deputati radicali, no, ma erano veramente meravigliosi, erano i veri deputati che lavoravano senza vincolo di mandato. L'elogio di quale Maria ha sbagliato? Io non ero molto convinta e resto poco convinta del suo avvicinarsi per provocazione, per molte ragioni a soggetti, anche a parlamentari che erano sotto inchiesta. Berlusconi, ma scusami, ma lui a la sua lotta, per esempio, Cosentino, lui fa la grande battaglia per la responsabilità civile dei giudici, sì, e la vince, vinciamo il referendum e il referendum ci viene negato totalmente. Gli italiani votano a maggioranza per la responsabilità civile dei giudici e niente, se ne fregano tutti per paura della magistratura. Lui fa in lotta per la riforma della magistratura, anche su altri referendum vicino, il finanziamento pubblico ai partiti l'abbiamo tolto, vicino di tante battaglie ne ha fatte, qui si sta parlando di qualcosa che la giustizia è enorme da tantissimi anni, si sta parlando di qualcosa avrà sbagliato, no? E Maria Latella ci dice una cosa sbagliata. Per mille cose, ma piccole delle cose, piccole, no? Però le grandi piccole sue battaglie, no? La riforma della giustizia, la riforma dello Stato, la sua lotta anche per dire, quando lui lo faceva lo sciopero della fame, perché mancava un giudice costituzionale, dice, ma che se ne frega? No, perché il suo rispetto della legge, no? E del suo rispetto dello Stato. La cosa era, come dire, poi era tranne qualche canna così a 80 anni, tranne qualche canna così. Ma assolutamente, ma è una cosa anche là d'avanguardia. In America in metà degli stati oramai hanno legalizzato la marijuana, no? Vabbè, poi ovviamente ci scrivono, ha portato ha portato Cicciolina in Parlamento, ma dai, ma ragazzi, era la provocazione. Io vedevo la Cicciolina con la borsa là che andava, si informava, leggeva, è stata una brava parlamentare. Maria, me lo vedo vicino alla ricerca di Cicciolina in Parlamento. Posso dire però una cosa? Sì. Ecco, Cicciolina è ancora ferma lì nell'immaginario collettivo degli americani come esemplare massimo del Parlamento italiano. Eccola. E tutto sommato ne potevamo fare anche a meno, non che poi successivamente Parlamento italiano non abbia avuto emuli esatto, all'altezza. Scusa, però negli Stati Uniti, a distanza di 30 anni, ancora si citano Cicciolina. Però non guarda, era che Cicciolina non l'ha fatta eleggere lui, l'hanno votata perché si votava con le preferenze, l'hanno votata. Lui ha solo candidato in lista insieme a altre 40 persone, l'ha poi candidata. Ci sono gli italiani lui ha sempre dato voce agli italiani, quando ha fatto sempre aperto la radio alla radio parolaccia, no? Sì, me la ricordo. Le notti ad ascoltare web, da adolescente. Le schizze del web 30 anni prima. Ma anche Peter Bescapè in regia l'Alpino sorride a ricordare tutti gli insulti in Radio Radicale. Va bene, dai, Pannella. Questo però a me ha inquietato. Cioè, lo so che si sovrappongono queste due immagini di ieri, ma ragazzi, ieri c'è stata questa notizia. Io non lo so se è vero, ma mi ha molto colpito leggere oggi su Repubblica il comandante degli artificieri di Roma. Leggetevi queste intervista, poi lo farò in rassegna stampa, a dire: guardate che basta mettere 30 grammi di esplosivo a bordo all'interno di un aereo, provocare un'esplosione, basta che si rompa un finestrino, ci sia una falla e l'aereo viene giù, c'è probabilità che venga giù. E a me, dice, è capitato una volta di dimenticarmi un petardo nello zaino, sono passato tranquillamente. Cioè, il tema è, Maria Latella, se adesso si dovesse dire che è davvero una bomba, e vuol dire che a Parigi qualcuno è riuscito a far salire una bomba a bordo. Oh ragazzi, ma io non lo so, che come dobbiamo vivere i prossimi 30-40 anni? Allora, io faccio Roma-Parigi tutte le settimane, perché abito 3 giorni lì e 3 giorni a Roma, va bene? Dopo i tragici fatti di novembre, per qualche settimana i controlli all'aeroporto di Parigi erano molto accurati, c'erano quelle cose che si fanno per scena, no? I militari col fucile a tracolla che passavano per le... di recente i controlli sono tornati ad essere più o meno a livello di un anno fa, nel senso che 2 giorni fa, quando ho preso l'aereo per tornare, non è che mi abbiano fatto togliere le scarpe, non hanno controllato la valigia, ma questo evidentemente passando sotto i raggi hanno visto che non c'era niente da fare. Però portare dell'esplosivo, mi è stato spiegato, non è questa cosa impossibile. Ma è inquietato, per esempio, molto. Basta metterlo sotto dentro i tacchi delle scarpe. Per esempio. O nel laptop del computer, dicono, cioè ormai fanno delle cose tecnologiche, cioè bastano 30 grammi, ma ragazzi è impressionante. Cioè. E quindi come dovremo vivere nei prossimi 30 anni? Cioè, convivere insicuri con questo, con questa sottile insicurezza per cui quando sali su un aereo pensi, speriamo che vada bene, lo pensi magari sempre, soprattutto se ti capita una tempesta di vento, ma magari ancora di più. Però anche se stai all'aperto in un bar lo pensi, e questa cosa l'hanno notato in molti, colpisce di nuovo due paesi già pesantemente colpiti dal terrorismo. Com'è? Perché l'aereo partiva da Parigi ed era un aereo Egyptair. E questo in un momento in cui il paese, l'Egitto è devastato da molte cose, incluse le libertà che vengono negate, e la Francia cominciava a risalire. Sì. 3 giorni fa era piena di turisti Parigi. Sì, e ricordiamoci che ci sono i campionati europei, tra un mese i campionati di calcio, portano gente da tutta Europa, se non da tutto il mondo. Cioè, ragazzi, questo è, e ricordiamo che Parigi è stata ben colpita di recente da 2 gravissimi attentati terroristici proprio a Parigi. No, ma infatti questa è l'inquietudine, non è detto che sia una bomba, ma molti suppongono davvero di sì. Devo andare a dare le informazioni sul traffico, poi ritorniamo con Maria Latella, con Vincino, state con noi, eh. Mina, e dammi ste sul posto del traffico, va. Buongiorno Mila, se Renzi cerca soldi, se li faccia dare dei gestori dei video poker, visto che hanno abbonato 98 miliardi. Nei 5 Stelle sta prendendo piede l'algoritmo matematico che misura la fedeltà al programma del candidato politico. Io propongo invece un algoritmo che ne misuri l'idiozia di questi 5 Stelle. La vera vergogna non è che Salvini è andato in campo rom, è che ne è uscito. Vicino, ma come cazzo ragioni? Tu ce l'hai col Movimento 5 Stelle a prescindere solo perché sono onesti? Ho appena superato l'incrocio che dalla Pontina passa sotto il raccordo anulare. Il più onesto adesso sono io. Caro Vincino, questa è la nostra segreteria telefonica. Siamo con Vincino e con Maria Latella, di cui poi voglio ricordare ovviamente domenica alle 10, giusto Maria? Nessuna è perfetta. Giusto alle 10. Un orario un pochetto confortevole. Eccola lì, per svegliarsi un po' più con calma rispetto a questa mattina. Allora, i politici radicali, Pannella in sì, ancora. Mica la conversazione di 3 ore. Della domenica di Pannella, allora, Radio Radicale. Sono stati tutti i più onesti politici italiani, senza urlare onestà. Loro lo erano, la praticavano, andavano nelle galere ogni giorno a trovare gli altri, a trovare Cosentino nelle galere. Lo so dove vuoi arrivare. No, ma come dire, quando diceva quello la cosa dei 5 Stelle, dicono onestà, quella è una imbecillità. Perché Vincino ce l'ha un pochino col 5 Stelle, Vincino. Un pochino. Non vorrei dirti che alle 8:40 ospite Pizzarotti, il sindaco di Parma. Ebbene no. Vabbè, ma alle 8:40 quando ospite Pizzarotti, lo ascolti? Lo ascolterai? No. No. Altro da fare. Io però vorrei parlare di questo un attimo, visto che vivete anche a Roma, parte Vincino. Ma lei vive a Parigi 6 giorni, è meraviglioso. Lo so, e la invidi moltissimo. Io gli italiani che vivono 3 giorni a Roma e 3 giorni a Parigi. Lo so, la invidi molto, tutti noi la invidiamo. vediamo però. Ci sono pure. Adesso non voglio fare che ci sono gli svantaggi. Però dai. Tu e giù. Però su Roma vorrei chiedervi questo. Poi Maria, oltre a stare a Roma, sei anche un'attenta osservatrice ovviamente della politica. Senti, allora intanto ti chiederò un pronostico e così subito ti metto in difficoltà su chi vincerà a Roma. Ma poi c'è questo giallo che ci perseguita da giorni, non giallo, della questione della Ferrari di Marchini. Ma io veramente non la capisco questa cosa. Ancora sentite Marchini. Nemmeno io la capisco. No, ma infatti, ma c'è una Ferrari. Io la capisco perché Donald Trump, che è ipermilionario, sta conducendo una campagna di successo negli Stati Uniti, può non piacere, a me personalmente non piace, però sta conducendo una campagna di successo proprio anche esibendo la sua ricchezza, cioè è riuscito nel paradosso di fare il campione anti-establishment, essendo lui billionaire all'ennesima potenza. Certo. In Italia, dove pure gli italiani per 20 anni hanno votato con trasporto un billionaire senza ovviamente additarlo per il fatto che possedeva aerei, ville, molte ville, barche, eccetera. Adesso Marchini non ha certamente mai nascosto, no, la sua ricchezza. Adesso si fa un caso per la Ferrari, perché lui scende dalla Ferrari già. No, però devo dire che anche lui lo ha un po' alimentato, cioè perché dovrebbe venderla? Sentite, ancora continua, adesso lo perseguitano questa storia della Ferrari, la panda. Beh, innanzitutto scusi, guardi, io non ho mai avuto la panda, porta anche una certa sfiga, quindi evitiamo. Ma come la panda porta sfiga? No, suo modo. La panda rossa di Marino. La panda rossa, certo, la panda rossa di Marino. No, adesso mi ha tutto sulla panda. Porca miseria, mi è venuto in mente le multe della panda rossa di Marino. Ma è il suo modo anche un po' naif, no? Di dire le cose e forse essendo abbastanza autentico nella sua comunicazione non gli ha giovato l'immagine di uno che scende dalla Ferrari e va sale su sulla panda. Un'utilitaria. Sulla questa panda, forse non la fa. Avrebbe dovuto arrivare in Ferrari. Buonanotte. Sì, no, ma hai detto Vincino, tu lo invidi un po'. Marchini, lo vedi girare ogni tanto in Ferrari? Devo dire no, perché lui fuori raccordo, certo, non hai capito? Certo. Quando si perde nelle sue ville, nelle sue cose, non lo seguo. Però, come dire, secondo me questo non è sbagliato, guarda, perché cioè, vedere un Lamborghini e una Ferrari dentro il centro di Roma, uno dice, ma inquina moltissimo, fa come dire, ma inquina come le altre, no, molto peggio, fanno senti dei rumori pazzeschi. Assolutamente. Non va bene. Comunque Marchini, sono scomode a scendere a salire tutto con quei sedili, non è che è tanto comodo. Vuoi mettere una bella utilità, una bella Jaguar casa, la Jaguar effettivamente, le Jaguar antiche. I giornali sono ipocriti, e anche siamo ipocriti tutti sui social media, sono ipocriti, perché se uno ha la Ferrari, ma che problema non è che c'è? Per questo lo voti o non lo voti, ma perché c'ha la Ferrari, lo voti o non lo voti se ti fidi di quello che potrà fare per una città, ma anche perché Ferrari non mi pare un criterio sulla base di no, ma anche perché se lo voti o non lo voti per la Ferrari vuol dire che non è che hai vuol dire che vivi di invidie, non so, di invidie sociali. Comunque per concludere, è una delle palle al piede di questo paese, è vero, non solo invece negli Stati Uniti uno fa due conti e dice io non ce l'avrò forse la Ferrari, però lui è posso aspirare ad avere una, e mai è stato bravo. Ma no, infatti il tema è si sgambetta chi è stato bravo, il tema anche è Ferrari. Esatto, il tema è se li hai conquistati onestamente i soldi, bene, no, però per concludere sentite qui sempre Marchini che confessa un reato gravissimo. Questo qui era quello che si verificava quando noi eravamo più giovani a New York, dove c'era il più alto tasso di evasione delle metropolitane. Quindi anche tu sei stato portoghese. A New York sì, lo confesso. A New York non pagava il biglietto. A New York, Marchini. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio. Vincino e Maria Latella, che ritroverete ovviamente domenica alle 10. Nessuna è perfetta qui a Radio 24. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima. È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì! Viva Milan! Viva Radio 24! 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori. Sì, mi sono dimenticato che devo accendere il microfono e parlare. E guardavo le mia lunedì, le venerdì. Ah, vabbè. Certo, è venerdì, signori. La 159esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. E io devo parlare quando c'è la musichetta, la sigletta. E devo parlare, se no guardavo Peter Pescapedi. Allora? Guardavo Lorenzo Espoli allora e loro mi guardavano, beh, parli? Sì, effettivamente. Tocca a me. Allora, siamo pronti a leggere i giornali. Due notizie oggi sulle prime pagine che campeggiano la morte di Marco Pannella, ovviamente, ma soprattutto anche l'ipotesi di un attentato terroristico sul volo Parigi-Il Cairo. Andiamo! Oh, non sanno di che parlare i giornali, In questo venerdì 20 maggio siamo ai titoli, l'apertura o le aperture, devo dire, perché molti giornali scelgono di mettere la notizia sia dell'aereo egiziano sia di Pannella con risalto simile. Anche prima pagina del Sole 24 Ore c'è l'addio a Pannella, leader dei diritti civili. Il titolo principale però invece è sull'Europa, bond sotto zero a quota 2.600 miliardi, i mercati e tassi negativi, l'inchiesta del Sole 24 Ore. E poi dal Corriere, aereo caduto, ipotesi attentato, ma anche Pannella, la spinta ai diritti che ha cambiato l'Italia. Per Repubblica, Parigi-Cairo, strage in volo, una bomba, è terrorismo. Questo è il titolo principale. La Stampa, una bomba a bordo, incubo terrorismo sul volo Parigi-Il Cairo, ma anche Pannella, l'uomo delle sfide che hanno cambiato l'Italia. Strage nei cieli, incubo bomba, torna sul Messaggero, così il giornale è la jihad degli aerei, disastro sul Parigi-Cairo. Mentre strage nei cieli, spettro ISIS, è il titolo principale del giorno. Vedremo altri titoli. Intanto c'è da dire che per quel che riguarda Marco Pannella ovviamente dovrete orientarvi tra la miriade di ricordi, articoli, interviste, spaccati, ritratti. Non è facile ovviamente comprimere la vita politica, la vita pubblica di Marco Pannella in poche pagine di giornale, ma oggi ovviamente i giornali dedicano chi 10, chi 8 pagine, insomma potrete trovare davvero di tutto. Io vi voglio segnalare per la cronaca intanto il fatto, e cioè gli ultimi giorni, scrive Alessandra Arachi sul Corriere della Sera, se n'è andato nella clinica dove tante volte era stato ricoverato dopo i suoi scioperi della fame e della sete. Marco Pannella è morto poco prima delle 2 di ieri pomeriggio, aveva 86 anni. E tra l'altro il Messaggero racconta, pagina 7, insomma, che combattente fino alla fine, controcorrente fino alla fine, Mario Aiello e Alessia Marani raccontano che già il giorno prima del ricovero avevano provato a ricoverarlo, ma lui si era ribellato. Non mi ricovero, lasciatemi a casa. Martedì il tentativo di portarlo in clinica, lui blocca l'auto e scappa. Martedì scorso, racconta il Messaggero, si provò a portarlo in clinica, fu fatto scendere dalla casa in via della Panetteria, ma lui, così racconta il barbiere accanto, si opponeva con tutte le forze. Non voglio andare via da qui, assassini, dove mi portate, vi denuncio. Lo sentivamo urlare tutti, racconta Alberto, uno dei presenti alla scena. La macchina con Pannella fa qualche metro, lui riesce a aprire lo sportello e scende. Ha stretto la mano a qualche presente, in stato di semilucidità ha imboccato il portone di casa. Il giorno dopo è arrivata invece l'ambulanza e viene portato nella clinica dove appunto poi è morto. Allora, dicevo, tra i tantissimi articoli che ci sono, ricordi, io ne ho scelto uno un po' sui generis, un po' particolare per l'autore, Vasco Rossi. Vasco Rossi oggi scrive per il Corriere della Sera un ricordo di Marco Pannella, pagina 16. Mi voleva candidato, io gli dicevo ci sei già tu, il mio alter ego, provocatore di coscienze, decisamente rock. Scrive Vasco Rossi, quando l'ho incominciato l'avventura, la mia avventura rock, e scrivevo e cantavo le mie prime provo canzoni, Non siamo mica gli americani, Sensazioni forti, Colpa d'Alfredo, Alba Chiara, Marco Pannella e i radicali conquistavano le prime roccaforti di una civiltà libera, il divorzio e l'aborto. Già, oggi diamo tutto per scontato, talmente assuefatti che quasi non ci accorgiamo che ogni tanto ci vengono messi in dubbio quei diritti civili che abbiamo acquisito e conquistato con molta fatica nel secolo scorso, o se preferite solo 40 anni fa. Quando Pannella fondava il Partito Radicale io avevo 3 anni, e non voglio dire che simpatizzavo già allora, ma un po' di anni più tardi sì. Non avevo ancora ben chiaro quale sarebbe stato il mio futuro da giovane, di certo non mi vedevo seduto dietro una scrivania o in banca, vivevo nell'immediato, frequentavo gli ambienti anarchici, facevo teatro sperimentale, suonavo la chitarra, scrivevo canzoni, correvo dietro alle donne. Le idee radicali di Pannella, per combinazione, erano molto simili alle mie, ai temi delle mie canzoni: abbattere il pregiudizio, sospendere il giudizio, tolleranza, anticlericalismo e, cosa non da poco, antiproibizionismo. L'ho poi conosciuto durante le mie prigioni, dopo il successo di Vita Spericolata. Lui e Fabrizio De André mi mandarono un telegramma di solidarietà, cosa che per me contò moltissimo. Era il gesto di due amici veri, di quelli che non stanno lì a menartela e ti stanno vicino anche quando sei in difficoltà. Io non ho mai ceduto alle sue lusinghe, mi ha inseguito per anni chiedendomi di candidarmi. Ancora oggi ci rido su e gli ripeto: sei già tu il mio alter ego politico. Io sono una rock star e questo mi appaga. A ognuno il suo mestiere, e perché mai dovremmo scambiarci i ruoli? Ma tanto lo so che lui continuerà a fare programmi su di me. Così Vasco Rossi. Ma ripeto, c'è un mare magnum di interviste e di ricordi. Spunta ovviamente nella vita di Pannella c'è stata, e degli italiani, Cicciolina. Non potevano spuntare Cicciolina in un paio di interviste su un paio di giornali. Al Messaggero, per esempio, ricorda: glielo dicevo sempre, Cicciolino Marco, tu fumi troppo. E vabbè, insomma, il racconto della sua esperienza parlamentare, le donne radicali che non mi volevano, Pannella che invece mi incoraggiò, mi diede un libretto e mi consigliò di leggerlo, era la Costituzione, e io la misi sotto il cuscino, così, Ilona Staller con la Costituzione sotto il cuscino. C'è anche nell'intervista di Claudio Marincola per il Messaggero un piccolo, come dire, ammonimento finale sul vitalizio che Cicciolina prende. Lo sa che Pannella non approverebbe, ma sono 2.000 euro al mese, mica 20.000, così Cicciolina, stipendiata da tutti noi come altri, ovviamente, con il vitalizio. Va bene, parliamo di scuola, perché Ilaria Venturi racconta sul famoso bonus per i professori. C'è una polemica nella scuola, figurarsi, c'è un mondo esente dalle polemiche? No, può mai essere esente dalle polemiche il mondo della scuola? Giammai. Molte scuole, questa è la polemica, coinvolgono gli alunni nella valutazione per i premi in busta paga dei professori. I sindacati minacciano ricorsi. Beh, anche questa è una grande novità. Comunque, in uno scatolone giallo all'ingresso, i maturandi hanno potuto infilare per 2 giorni il giudizio anonimo sui loro insegnanti, una sorta di primarie dei prof, un referendum a scuola con tanto di seggio. È successo al Liceo delle Scienze Umane Duca d'Aosta a Padova. Ed è polemica, con un gruppo di docenti già pronti al boicottaggio proprio nei giorni caldi per la scuola. Stavolta sono gli studenti a dare i voti a chi sta in cattedra, la cosiddetta customer satisfaction, insomma la soddisfazione del cliente, in questo caso sono gli studenti, che entra nelle aule per la prima volta legata allo stipendio. Non è solo una questione di fini statistici e di miglioramento, perché i professori però protestano, dicono: ma come? Però succede in varie scuole. A Bologna, il liceo scientifico Copernico sottoporrà ai suoi 1650 alunni 10 domande online. L'insegnante suscita interesse per la disciplina, è chiaro quando spiega, sollecita l'attenzione, è puntuale, punteggio da 1 a 6 e solo le schede che raggiungeranno almeno il 4 arriveranno sul tavolo della preside per concorrere al bonus. Insomma, in una situazione in cui nessuno ha fatto delle regole precise, le scuole si attrezzano. E quindi ci sono anche alcune storie raccontate da Repubblica che suscitano proteste dei professori. Questo succede nella scuola italiana. Mentre io vi voglio segnalare una persona raccontata da Repubblica che ho conosciuto in vita e che tutti secondo me dovrebbero conoscere almeno una volta. Oggi ne racconta la storia Maurizio Crosetti su Repubblica, pagina 31. Racconta la storia di un'azienda a Piombino Dese, Padova. È l'azienda Itech che produce telefonini e tablet per non vedenti, anzi per ciechi, come si definisce lui stesso, Davide Cervellin, fondatore della Tiflo System, un personaggio straordinario che, ripeto, tutti almeno una volta nella vita dovrebbero conoscere. Io ho avuto questa fortuna. E Davide Cervellin, un cieco che produce e commercia tecnologie per ciechi, proprio usa questa terminologia, non un non vedente, ma si definisce lui proprio un orbo alla veneta, ognuno è quello che è indipendentemente dall'ipocrisia e dal pietismo delle parole. È questo omone di 58 anni, e ne sono passati 30 da quando ha creato la Tiflo System, con una liquidazione da 35 milioni di lire. Era un dirigente programmatore alle generali, fondò questa azienda dove non bisogna vergognarsi di dire che anche l'handicappato è un consumatore, parole di Cervellini, che i suoi bisogni danno lavoro. Qui, scrive Crosetti, in 30 anni Cervellin, 4 figli adottati in Colombia, una moglie Lucia persa 5 anni fa, ha dato altri occhi a 16.000 ciechi, molti dei quali bambini, attraverso la tecnologia. A un certo punto riceve una telefonata durante l'intervista: ciao Andrea, guarda, devi fare così, il tablet di Andrea si era impallato, e Andrea sarebbe poi Andrea Bocelli. Con uno smartphone restituisco gli occhi a chi è cieco come me. L'impresa di Davide, impresa in tutti i sensi, è un'impresa tra l'altro tecnologicamente avanzatissima e molto, puoi andare orgogliosi per l'Italia, la Tiflo System, fondata da Davide Cervellin. La storia è raccontata a pagina 31 di Repubblica e ve la voglio segnalare. Come vi segnalo l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Succede a Corbetta, Milano, dove il PD, racconta Libero a pagina 9, ha messo in lista anche il nipote di un boss dell''Ndrangheta, facendo scoppiare una bufera. Alberto Lovati, 28 anni, legame di parentela stretta con un condannato in primo e secondo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e estorsione. Lo zio, che dovrebbe farsi 15 anni di carcere. Lo stesso PD, accortosi, promette, dice cambieremo tutto, ma ormai non si può più fare niente. Lui dice: se mi eleggono mi dimetto. Insomma, il PD mette in lista il nipote di un boss. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice: sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it. Ma che razza di risposta è questa? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che, quando queste cose capitano, dice soltanto: sono cose che capitano. Ebbene sì, sono Francesca e Federica, due sorelline di Bari, che ci hanno mandato via WhatsApp al 349-238-6666, tramite la mamma, voglio sperare, tramite il papà, voglio sperare, e questa nostra sigla, o meglio lo spezzone preso da questo pazzo mondo che utilizziamo sempre per mani sul volante. Un abbraccio a Francesca e Federica. E allora, cari ascoltatori, purtroppo quello che si profilava come ipotesi sembra sempre più concretizzarsi, almeno secondo molti esperti, cioè l'ipotesi di terrorismo per l'aereo Parigi-Il Cairo che è precipitato quando ormai stava approcciando le coste egiziane. La pista terroristica, le tre ipotesi: bomba, follia, dirottamento. Questo è il titolo dell'articolo di Guido Olimpio. Ovviamente si parla di scenari per questo aereo con 66 persone a bordo, di cui credo 55 passeggeri. 59 passeggeri, scusate. Però, scrive Olimpio, prima i russi, poi gli egiziani, infine gli americani con meno decisione, ma il sospetto è identico. Il volo MS-804 Egyptair è stato probabilmente vittima di un gesto terroristico. Le intelligence hanno fatto trapelare indiscrezioni sulla presenza di una bomba, anche se manca la prova regina, abbonda la confusione. In serata la Casa Bianca ha invitato alla prudenza, i controlli negli aeroporti sono aumentati, anche perché se davvero è stata una bomba, significa che qualcuno in un aeroporto a Parigi ha fatto salire una bomba a bordo. Questo mi inquieta molto, immagino tutti voi, e soprattutto non rasserena leggere ciò che Giuliano Foschini su Repubblica scrive a pagina 15, l'intervista. A chi? Al comandante degli artificieri di Roma. Ma sentite cosa dice. Negli scali italiani ci sono verifiche accurate, ma quello dei liquidi è uno dei pericoli possibili. Sentite cosa dice il comandante Salvatore Timpano degli artificieri di Roma. Pochi grammi di esplosivo, un laptop come innesco, bastano a distruggere un aereo. Ai terroristi interessa far saltare anche solo una piccola parte del velivolo. Un'esplosione di un solo finestrino a certe altezze provoca irrimediabilmente la caduta dell'aereo. È quello che stava succedendo al volo della compagnia Somala da Allo Airlines. Due dipendenti dello scalo danno un laptop bomba a un kamikaze, 2 febbraio. Lui si fa saltare dopo il decollo, lo scoppio provoca la rottura di un finestrino, ma il volo, non ancora in quota, non cade. Certo, ma come fa arrivare un esplosivo a bordo? Non dovrebbero i controlli evitare tutto questo? Risponde sempre il comandante degli artificieri di Roma. Gli scanner degli aeroporti sono in grado di riconoscere chiaramente gli esplosivi. In quantità così piccole serve però grande attenzione ed esperienza. Non dovrebbe succedere, ma evidentemente qualcosa sfugge. A me, racconta per esempio una ragazza, è capitato di viaggiare con l'esplosivo senza che nessuno mi abbia fermato. Era andata al festival, la festa valenciana nota per i fuochi artificiali e i petardi. Mi è rimasto, perché mi sono dimenticata, un petardo nello zaino e sono passata e lo scanner non si è accorto di nulla, o nessuno allo scanner si è accorto di nulla. Insomma, bastano 30 grammi di esplosivo per far saltare un aereo. Certo, il timore è davvero che sia un attentato, come scrive anche Carlo Bonini su Repubblica. Kamikaze, ordigno a tempo, dietro l'ultima virata dell'Airbus c'è il timore di un attentato. Veniamo alla politica italiana, che è stata un po' fagocitata oggi sui giornali dalla scomparsa di Marco Pannella, dalle notizie legate a questo. Ci si concentra soprattutto sugli annunci fatti da Renzi. Nell'ultimo Matteo risponde per il Fatto Quotidiano, 30 miliardi di promesse sono i conti in tasca all'annunciatore. L'annunciatore, ormai lo chiamano così al Fatto Quotidiano. Mentre Mario Sensini sul Corriere della Sera racconta che riguardo all'apertura della voluntary disclosure, o disclosure, come adesso diciamo col nostro Mauro Meazza tra poco, la lettura del Corriere è questa. Renzi ha annunciato il taglio IRPEF per il ceto medio. La questione è questa: i contribuenti votano, le imprese no. E allora il presidente del Consiglio Renzi non ha mai detto che il taglio dell'IRPEF per il ceto medio sia alternativo a quello delle tasse sulle imprese, ma è un dato di fatto che, visti i limiti di bilancio, non ci sia spazio l'anno prossimo per entrambe le cose. E così, a meno di non voler immaginare tagli di spesa molto più cospicui di quelli oggi in cantiere, la congiuntura politica sta cominciando a spostare l'ago della bilancia verso il taglio dell'IRPEF. Il ragionamento è molto semplice, come dice Sensini. Visto che non si può fare tutto, su cosa agire? Il taglio dell'IRPEF o le imprese, o gli sgravi alle imprese? Beh, i cittadini votano, le imprese no. Questo è lo slogan, secondo il Corriere, per cui Renzi è orientato a dire tagliare l'IRPEF ai cittadini. Tra l'altro, la questione di Matteo Risponde, non sottovalutatela, perché giustamente oggi Carlo Bertini sulla Stampa racconta, pagina 15, che Renzi ha messo in moto una strategia della social TV, in pratica per bypassare i tanto poco amati talk show, tranne quando ne è ospite. Il Premier farà una sorta di social TV personale, cioè si è inventato questo nuovo format, il primo esperimento di social TV, l'idea che le famiglie utilizzino la televisione come schermo dove veicolare Facebook, spiega così il responsabile di comunicazione Francesco Nicodemo. Insomma, si è fatto il suo talk show in cui è ospite, unico, conduttore, selezionatore di domande e datore di risposte. E il Premier farà coi compagni scout il comitato per il sì. Questa è l'altra notizia che dà la Stampa in questo articolo. Insomma, bypassa i mezzi di informazione tradizionale, bypassa i talk show. Adesso ha fatto anche Matteo Risponde in prima serata alle 21.30 e ora farà la campagna per il sì, risalutando e rincontrando i suoi compagni scout, tra cui anche Mauro Meazza. Devo dare questo grande annuncio. Buongiorno Mauro. Buongiorno. No, non mi risulta, no? Però no. Non so, tu sei anche tu, però fai la social TV, mi dicono che oggi farai un tutorial. Sì, alle 7.55 sul mio profilo pubblico di Facebook, appena finita la rassegna stampa, farò vedere come si apre una noce di cocco in diretta con un coltello e una noce di cocco. E la testa di Lorenzo Nespoli. Vabbè, lasciamo stare la testa di Lorenzo Nespoli, invece me ne compiaccio, fa informazioni di servizio. Ma è fondamentale. E quindi sai che il Sole 24 Ore è sempre attento a fare informazioni di servizio. A questo proposito ti segnalo, vabbè, adesso sono in noce di cocco, magari glissiamo. Sì. Però ti segnalo invece cose più serie, come, per restare sul tema appunto delle social TV, Equitalia, il futuro di Ammalia, il futuro di Equitalia, quale sarà il futuro di Equitalia? Infatti. Te lo raccontiamo, cerchiamo di dare le anticipazioni oggi su Sole 24 Ore. Vorrei precisare che comunque, anche se non ci fosse più Equitalia, qualcuno che va a chiederti le tasse che non hai pagato, bisognerà pur tenerlo. Esatto, ecco, non spargiamo la voce che siccome non c'è più Equitalia non si pagano più le tasse. Ecco, non vorrei che ci fosse questa equivalenza. Comunque, ci sono tantissime cose da segnalare oggi, devo pescare un po' fior da fiore. Citazione d'obbligo per la Voluntary Disclosure, non so se abbiamo già il nostro amico Angelino che ci può recitare condizione adatta alla Voluntary Disclosure, perché si parla di una riapertura a luglio. Ti danno una seconda chance, potrebbe esserci una seconda chance per i tuoi due urini depositati chissà dove. Poi ti segnalo che nelle pagine di norme tributi, sempre da leggere religiosamente, le norme sul tirocinio degli avvocati, le nuove norme sul tirocinio degli avvocati, che sono importanti anche con la possibilità di cominciare in università. Poi ti segnalo anche nelle pagine di finanza, che leggerai avidamente, questa operazione colossale Bayer-Monsanto, una fusione che l'offerta sarebbe sui 42 miliardi di dollari, quelle cifre che fanno un po' impressione. E infine, ma infine si fa per dire, solo perché altrimenti andiamo avanti fino al tuo social, al tuo tutorial, ti segnalo ancora che purtroppo gli aiuti alle imprese emiliane sono arrivate solo nel 18% dei casi. Lo vedi nelle pagine di Imprese e Territori, che leggerai scrupolosamente. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, ci sei ancora o ti stai già preparando? Stai preparandoti per il tutorial. Questa è la noce di cocco. Va bene. È dura, sì, effettivamente. Va bene. Va bene. Okay. Allora, io ti faccio tanti cari auguri. Grazie. Per il tuo tutorial, sì, nonché per la partita, naturalmente, di domani. Grazie, mancava questa. Vinca il migliore, diceva. Io ci sarò, ti dico solo questo. Io ci sarò. Un grande allenatore della tua squadra diceva, quando gli dicevano vinca il migliore, speriamo di no. Forse è il caso di rievocarlo in questa circostanza. Va bene. Buona domenica e grazie. Traffico! Alessandro Milan, il tutorial dell'informazione. Ebbene sì, conferma, alle 7.55, tra pochi minuti in diretta Facebook sul mio profilo pubblico, romperò una noce di cocco con un coltello, vi faccio vedere come si fa. Mi chiedono, ma il profilo pubblico, dove la pagina pubblica, non la trovate, non la trovate? Allora fate così, andate sulla pagina di 24 Mattino su Facebook e lì il nostro Lorenzo Nespoli ha appena messo il link al mio profilo pubblico, così lo trovate, così lo trovate. Devo ringraziare e salutare tanto anche Salvatore, che ci scrive da Mosca e mi dice: dovunque mi trovi ho con me la mia Italia, grazie a voi, ti ascolto sempre. Viva, viva Salvatore. Allora, l'informazione, le polemiche per la cancellazione di alcuni programmi sulla RAI, parla la presidente RAI Monica Maggioni, intervistata da Repubblica, pagina 23, da Annalisa Cuzzocrea. Dice: l'informazione non diminuisce, non diminuirà, basta risse, più inchieste, pochi talk, ma non accusate la RAI di fare epurazioni. Risponde proprio alla domanda riguardo alla cancellazione di Virus di Nicola Porro su RAI 2. Dice: mi faccia rispondere da giornalista, qualche epurazione nella mia vita l'ho vista davvero, ma mai con una trattativa in corso sul programma successivo. Il mantenimento dello stesso trattamento economico, la possibilità di studiare un format diverso insieme al nuovo direttore di rete. Se le epurazioni sono così, vorrei essere epurata anch'io. Non risponde invece su Ballarò di Giannini: non voglio entrare nelle dinamiche delle singole reti, nel racconto dei singoli programmi. Per me l'autonomia editoriale dei nuovi direttori di rete è fondamentale. Ognuno di loro ci riproporrà la sua idea, le sue modalità di racconto. Insomma, non è un epurato, secondo Monica Maggioni, Nicola Porro, che invece dice anche sul giornale: io cacciato da Renzi. E intervistato anche dal Corriere della Sera, pagina 23, dice, a parte che dice: io epurato, ma va, sono la persona meno pura del mondo, il ricambio ci sta, ma speravo di fare altre 3 puntate a giugno. Però le hanno offerto un nuovo programma, e risponde Nicola Porro: un preserale di domenica, ci sarà un motivo per cui nessuno ha mai fatto un talk a quell'ora. Riguardo al rapporto con Renzi, gli ho chiesto una volta: che fai, vieni da me o devo stare sereno? Mi ha risposto: non stare sereno, e voleva dire sì, ci vengo. E allora è venuto da lei? No, la risposta di Nicola Porro. Va bene, comunque, tralasciamo questa questione. La questione della assoluzione invece di Mario Mori mi ha colpito. Assolto anche in appello l'ex capo del ROS insieme al colonnello Mauro Binu, oggi in servizio ai servizi segreti. Non hanno favorito, insomma, Bernardo Provenzano e Cosa Nostra, non arrestando il capo dei capi. Questo secondo l'appello. Era stata l'assoluzione anche in primo grado. In appello il fatto non sussiste. Mario Mori dice: mi restituiscono l'onore. E c'è un'analisi di Attilio Bolzoni che racconta, pagina 26, come dopo la soluzione a Calogero Mannino, dopo la soluzione a Mario Mori, è l'ultimo colpo dei giudici questo al processo sulla trattativa, la trattativa Stato-mafia. Vi segnalo solo l'incredibile storia della modella messinese Lucy, che il Corriere della Sera racconta con Andrea Galli e Simona Ravizza. Si è vista proporre 2.000 euro per fare stimolazioni ormonali e donare poi gli ovuli nella clinica di Severino Antinori, ora agli arresti. Ho avuto paura e sono scappata. La modella e la proposta di Antinori, mi contattò una promotrice di eventi, mi offrirono 2.000 euro per stimolare la produzione di ovuli e poi venderli. E racconta al Corriere della Sera come sia scappata da questa situazione. Va bene, siete tutti pronti tra poco andare sulla pagina mia pubblica di Facebook vi per l'apertura della noce di cocco, speriamo. Vi segnalo solo la carta costa in chiusura, una pagina di Francesco Borgonovo sul quotidiano Libero racconta la storia dell'ultimo film di Angry Birds, dove gli uccellini vengono accolgono dei maialini verdi sull'isola, che però poi si rivelano non tanto amici, ed ecco allora sono gli uccellini anti-immigrati, gli uccellini che sfidano la retorica buonista mostrando i pericoli dell'invasione. Ma chi se ne frega!